Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, siamo pronti all'arrivo della primavera e continuiamo il nostro itinerario nelle ville museo che l'Italia ci offre. In particolare torniamo nelle terre di Parma, dove eravamo già stati qualche puntata fa per vedere il labirinto di Franco Maria Ricci, e andiamo a visitare la bellissima Fondazione Magnani Rocca. Si trova a Mamiano di Traversetolo, che è un paese a sud di Parma, verso le colline, non molto lontano da Parma, ed è una collezione, un luogo che venne creato da Luigi Magnani, il quale era un imprenditore del tesoro che c'è da quelle parti, cioè il parmigiano reggiano. Questa produzione gli dette una vita agiatissima e gli permise naturalmente di diventare uno studioso, un intellettuale di primissimo piano. Luigi Magnani è stato un biografo di Beethoven, è stato amico e biografo di Morandi, quindi aveva degli interessi molto vasti e la possibilità di creare nella sua casa una straordinaria collezione d'arte. Noi, se andiamo lì, incontriamo per esempio uno dei più grandi e importanti quadri di Francisco Goya. È il ritratto dell'infante di Spagna, cioè del fratello del re con tutta la sua famiglia, un grandissimo ritratto d'insieme, uno dei più grandi capolavori della ritrattistica del tardo Settecento in Europa, che Luigi Magnani riuscì a comprare e portò lì. Possiamo incontrare la Madonna del Patrocinio di Dürer, uno dei capolavori di questo artista tedesco del periodo veneziano, e così opere di Tiziano Giovanile e altre meravigliose opere, per esempio, che vengono dalla corte degli zar. Quindi è un luogo che già per la collezione permanente vale veramente un viaggio. Tra l'altro la villa si trova in un giardino meraviglioso, un giardino ottocentesco, molto ampio, con delle caratteristiche di giardino all'inglese, però anche la fondazione ha un'attività culturale molto attenta a valorizzare singoli settori della collezione. Luigi Magnani non si limitò a collezionare solo le opere antiche, ma collezionò le opere dei suoi contemporanei, in particolare Morandi e anche Gino Severini, che guarda caso è il protagonista di una mostra molto importante che scava all'interno di questo artista. È molto importante che ci siano queste attività, perché si tratta veramente di un'attività di studio quasi a livello universitario per approfondire singoli aspetti delle collezioni. Da tanti anni questa fondazione offre questo indirizzo, quindi tutte le volte che si va, ricordatevi, c'è la possibilità di immergersi dai più grandi capolavori dell'arte antica, la possibilità di approfondire un tema tutte le volte della collezione contemporanea e la possibilità di mangiare molto bene, perché siamo nella patria dei migliori salumi d'Italia e del parmigiano reggiano.